Vedo un mare quanto è bello, speritando sentimento, come tu che tieni a mento, ascetato e fai sognare. Guarda qua questo giardino, senti se sti giura arance, non profuma così fino, dentro cuore se ne va, e tu dici vatto a Dio, da lontano resto cuore, è stata dell'amore, che ero cuore non torna. Non dormi sto dormendo, torna sorrendo, fammi dormendo, no.